Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Preso dal panico, fermati un attimo, perché se vai più giù, forse non torni più, cerchi di uccidere, nemici, quello che hai dentro te, non lo dici, ma fare come fai, come fai, poi te ne pentirai, te ne pentirai. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il cambiamento degli stili di vita, l'evoluzione del pensiero, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 717 e parleremo di cervi, di cacciatori incoscienti, o forse troppo coscienti, di possibili svolte alimentari, di piccoli lupi che crescono. La colonna sonora e la ricetta della settimana sono a cura del nostro tosco vegan chef, paladino della cucina non violenta, Gabriele Palloni. E ho ritrovato me stesso da solo in un cesso, davanti allo specchio ho capito che tutto si intreccia, alla fine si spezza, ma se non si spezza hai ragione te, che a tutte le notti che faccio le tre e fare cazzotti per stare con te, e tu ammazzeresti per stare con me, è assurdo ma anch'io, idem. E se il mondo finisse domani, se arrivassero gli americani, io vorrei stare con te sotto le bombe con te, mentre mi sparano. Se arrivassero mille tsunami, se tornassero i tirannosauri, io vorrei stare con te, anche sott'acqua con te, mentre ci mangiano. C'è una fotografia, diffusa in questi giorni anche dall'agenzia ANSA e pubblicata da giornali e TV, che ritrae un cervo, con le sue ingombranti corna, affacciato alla finestra di quella che si intuisce essere una villetta di montagna. Siamo infatti a Pecol, una frazione del comune di San Tommaso a Gordino, in provincia di Belluno. Il cervo sembra guardare dentro casa, attraverso il vetro, con aria interrogativa, come se aspettasse qualcuno. Uno sguardo tranquillo, di chi ha familiarità con il luogo. Infatti, il cervo in questione era un animale speciale, semidomestico. Si chiamava Bambotto ed era stato cresciuto dagli abitanti della piccola frazione, che lo avevano trovato abbandonato, ancora cucciolo, sulla soglia di una delle abitazioni. Bambotto viveva libero, ma frequentava le case, riceveva carezze, a volte cibo. Era un cervo di paese. Lo hanno ucciso. A fucilate. È stato un cacciatore 23enne a compiere questo scempio, a quanto pare eseguito con la noncuranza tipica di chi pratica questa attività così violenta e senza scampo, senza ritorno. L'uccisione di Bambotto ha suscitato grande sdegno, è finita sui giornali, ha suscitato l'interesse di varie trasmissioni televisive. I giornalisti sono andati sul posto, hanno raccolto storie e testimonianze di chi conosceva Bambotto, hanno cercato il cacciatore, i suoi familiari, chiedendo spiegazioni. In particolare, il padre del ragazzo ha detto parole che sul momento possono suscitare indignazione, ma che sono invece, probabilmente, parole di verità. Intervistato dagli inviati della trasmissione Pomeriggio 5, l'uomo ha detto: «Il cervo è un animale che va cacciato con i permessi. L'orso che è stato ucciso invece non era cacciabile. Mio figlio ha fatto quello che fanno tutti i cacciatori. Vanno a caccia e ammazzano gli animali che gli capitano a tiro. Cosa mi ha detto quando è tornato a casa? Niente. Io ero a letto e stavo dormendo. Ho sentito il giorno dopo tutte queste chiacchiere. Mio figlio caccia da un paio d'anni. Sarà il secondo o il terzo cervo che uccide». Ecco, nella semplicità e nel cinismo di queste parole ci sono almeno due verità. La prima riguarda il senso ultimo della caccia, una pratica che ha la sua base concreta, ma anche morale, nella sopraffazione e nella indistinzione. I cervi, tutti i cervi, sono corpi a disposizione dei fucili dei cacciatori, i quali sono giudici insindacabili nell'infliggere la pena di morte agli animali che arrivano sotto tiro per il semplice fatto di esistere. Un cervo può essere ucciso e viene ucciso. Che altro c'è da dire? Forse che Bambotto era un cervo speciale per la confidenza che aveva con gli abitanti di Pecol? Su questo punto toccherebbe forse agli scandalizzati farsi un esame di coscienza e domandarsi se la pena e l'indignazione per Bambotto non siano tratti di ipocrisia più che di compassione. La seconda verità che scaturisce dalle parole del padre del cacciatore riguarda proprio la condizione animale nella nostra società. I cervi e tutti i selvatici, per non dire degli animali chiusi negli allevamenti e mandati al macello, sono esseri viventi, privati della loro dignità, di individui senzienti. Sono vite giudicate indegne d'essere vissute. Sono la punta estrema, le vite più disprezzate, ma non sono le sole, di una società profondamente ingiusta, profondamente violenta. I gesti e le parole del giovane cacciatore e di suo padre meritano una riflessione sincera, più che un moto, pur comprensibile, di disgusto. Non so mai esisterti un attimo, parco giochi, perderò un battito, portami su, voglio di più, ancora se ci sei tu, respiro un'altra ora. Non so mai esisterti un attimo, cuore a cuore, sento il tuo battito, portami su, voglio di più, ancora. A proposito di caccia e del suo ruolo nella società presente, c'è da aggiornare il solito bollettino di guerra che tutti gli anni funesta la stagione venatoria. Oltre al massacro di animali selvatici, ogni stagione riserva infatti i cosiddetti effetti collaterali, cioè morti e feriti nella popolazione umana. Sono chiamati incidenti di caccia e si tratta di un tributo di sangue che ogni anno la comunità degli umani è chiamata a pagare per consentire a una minoranza armata di praticare questa attività. L'episodio più grave è avvenuto in provincia di Firenze, nei boschi di Gambassi Terme, dove un cacciatore di 65 anni, Romano Filippetti, è morto per un colpo di fucile all'addome durante una battuta di caccia al cinghiale. Filippetti è morto pressoché sul colpo, prima che i soccorsi potessero raggiungerlo, davanti agli occhi dei compagni di battuta, fra i quali il figlio. Come accade ogni volta in casi del genere, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e intanto il magistrato, come da prassi, ha indagato la persona che ha sparato il colpo fatale. Va detto che la caccia al cinghiale, eseguita in battuta, coi cani che stanano e inseguono la preda, dirigendola verso cacciatori schierati in più punti per non lasciare scampo all'animale, è particolarmente pericolosa, anche per la potenza delle armi utilizzate. Sapore in bocca dalla sera prima, dicevi sono la tua medicina. Ma poi ti porti via la mia autostima. Non è che sei stata molto carina. Rovini tutto come i matrimoni. Costava poco stare sempre fuori. Ci bastava poco, mica i milioni. Ma c'è il problema che non t'affezioni. L'odore del tuo shampoo, il dolore arriva dopo come il tuono nel lampo. Sei lontana come casa tua vista dall'alto. Però dentro c'è un altro. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Un'altra inquietante notizia arriva dalla provincia di Cuneo, da Novello, e riguarda un amico di Restiamo Animali, Massimo Vacchetta, veterinario e fondatore dell'ospedale e rifugio per ricci, La Ninna, un'esperienza che Massimo ha raccontato in alcuni libri che sono stati autentici bestseller. Ebbene, Massimo ha avuto una disavventura con una squadra di cacciatori che durante un'altra battuta di caccia al cinghiale si erano pericolosamente avvicinati alle abitazioni, nella cittadina dove Vacchetta vive, appunto Novello. Come riporta il quotidiano La Stampa, Massimo è uscito di casa dopo aver sentito spari molto vicini e col cellulare ha iniziato una diretta Facebook per documentare quanto stava avvenendo. «Stanno sparando», ha detto durante la diretta, «troppo vicino alle abitazioni nel centro del paese. Guardate quanti cacciatori ci sono, e proprio lì c'è un cinghiale morto». Il corpo veniva mostrato dalle immagini riprese col cellulare. Ne è seguito un faccia a faccia coi cacciatori, assai poco contenti del reportage che Vacchetta stava facendo. Leggiamo dalla cronaca della Stampa. Uno di loro, che gli amici chiamano Gianni, prima ha avvertito il veterinario, ti spacco la testa, e successivamente si è avvicinato per aggredirlo fisicamente. Un altro uomo, con la pettorina arancione, lo ha trattenuto, continuando a minacciare il veterinario con la stessa violenza. «Se filmi ancora ti spacco le corna», aggiunge uno. «Non te li porto più i ricci», afferma un altro. A quel punto, secondo quanto testimonia Vacchetta, la diretta si sarebbe interrotta, proprio a causa della caduta del suo cellulare, a seguito di una spinta ricevuta. Nel video si può vedere un cacciatore con il fucile ancora in spalla allontanarsi dall'obiettivo. «Sei un drogato, hai gli occhi da drogato», si sente ancora. «Vattene, che ti conviene». E così la situazione degenera ulteriormente e un uomo con gli stivali gli sferra un calcio. A questo punto il dottor Vacchetta ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Vedremo che seguito ci sarà per questa vicenda di Novello, ma intanto ribadiamo l'appello a stare alla larga, molto alla larga, dalle battute di caccia e dalle persone armate. Ci sarà poi tempo, a stagione finita, per la macabra contabilità delle vittime, morti e feriti umani, fra cacciatori e no, di questi effetti collaterali. È affascinante accarezzarsi l'anima come si fa. La luce impenna sulla strada, la luna è arancione per l'umidità. Il traffico è la città, l'odore del mare arriva alla stazione. Chissà che cosa stai facendo tu. Magari ci incontriamo nei pensieri, ma i sogni restano parole in metrica. Io mi ricordo solo della musica e delle mani sulla pelle nuda. Ma non so dirti come si fa a non sparire nella confusione e dopo accorgersi che era bello. Come ben sappiamo, sono tornati a popolare le nostre Alpi e i nostri Appennini dopo decenni di assenza dovuta allo sterminio cui erano stati sottoposti. Questi magnifici animali, schivi e quasi invisibili, e tuttavia molto odiati e quindi messi nel mirino da allevatori, cacciatori e autorità pubbliche in vena di cavalcare le pulsioni sociali più regressive, sono tuttora minacciati. Siamo abituati a riportare notizie di esecuzioni clandestine, di trofei esibiti nelle strade da allevatori e cacciatori senza volto, di provvedimenti di eliminazione fisica annunciati o emanati da sindaci, assessori e altre autorità. Perciò fa piacere, per una volta, poter parlare di nuove nascite. La coppia di lupi, maschio e femmina, segnalata da qualche tempo nella Val Seriana, in provincia di Bergamo, ha allargato il branco, grazie alla nascita di 4 lupacchiotti. La conferma viene dal comandante della Polizia Provinciale di Bergamo, Matteo Copia. L'arrivo del lupo sulle Orobie, ha detto, è per certi versi fisiologico. Ce lo aspettavamo, perché gli Appennini sono saturi e sull'arco alpino c'erano già da tempo popolazioni stabili. Copia, per fortuna, sembra contento delle nuove nascite. È bene ricordare, ha detto, che il ritorno dei grandi predatori, quali lupo e orso, sono comunque un indicatore biologico sinonimo di un territorio ben conservato e in buona salute sotto l'aspetto naturalistico e della biodiversità. La conferma definitiva dell'esistenza della cucciolata è arrivata dalle fototrappole, che hanno mostrato 4 lupacchiotti in buona salute e già vecchi di qualche mese. La famiglia quindi conta oggi 6 individui. Questi lupi bergamaschi si sono insediati in un'area vastissima che comprende l'Alta Valle Seriana e la Val di Scalve, compreso il Pizzo della Presolana. Siamo contenti di questa notizia, ma nel diffonderla c'è sempre la preoccupazione che scatti una campagna di disinformazione sui pericoli portati dal lupo e che si arrivi alla psicosi notata troppo spesso in altre parti d'Italia. E forse proprio a fini preventivi la provincia di Bergamo si è sentita di precisare che è sbagliato aspettarsi un'esplosione demografica dei lupi. Un branco di lupi, si legge in un comunicato dell'ente, ha un areale di riferimento che può arrivare a 500 km quadrati e la sua presenza preclude l'arrivo di altri lupi. E tuttavia la disinformazione deve avere già preso piede se la Polizia Provinciale di Bergamo si è trovata costretta, in base alle segnalazioni ricevute e a rilievi effettuati in questi mesi, a smentire che il branco della Val Seriana stia facendo razzia di animali domestici. I lupi, viceversa, come mostrano anche le immagini delle fototrappole, si sono per lo più nutriti di animali selvatici, ampiamente presenti sulle montagne bergamasche, peraltro assolvendo, dice la provincia, alla funzione di regolazione della fauna selvatica, propria dei grandi carnivori. Benvenuti fra noi e lunga vita ai 4 lupacchiotti. Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia, solamente a metà. Mi saluti con un cenno e non so se ti rivedrò domani oppure mai più. Guardarsi indietro un'abitudine, lo spettatore del tuo film non sei mai tu. Non mi dici neanche una parola, quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia. Lella e Fabio, i Troglodita Tribe, sono amici di vecchia data di Restiamo Animali. Abbiamo spesso ascoltato le loro voci di amici dell'antispecismo, di autori di deliziosi, sempre originali libri di approfondimento e divulgazione e di scoperta dell'universo animale e delle relazioni che corrono fra le comunità umane e quelle non umane. L'editore Ortica ha appena pubblicato, con il suo raffinato gusto per la pagina di carta e le sue belle copertine, un altro libro di Troglodita Tribe, La fattoria infelice, un testo che riflette sul mito degli animali che vivono felici e in armonia con le famiglie contadine di una volta, o come una volta. Sentiamo i Troglodita Tribe. Per Ortica Editrice, nella collana Gli Artigli, è uscito da alcuni giorni il nostro piccolo libro dal titolo inequivocabile La fattoria infelice, sottotitolo Animali e contadini. Si tratta di un testo che circola sotto forma di autoproduzione già da diversi anni negli ambienti antispecisti e vegan. Un testo che abbiamo scritto per mettere in luce una truffa, anzi una doppia truffa, che manipola sin dall'infanzia il nostro immaginario. Attraverso testimonianze e informazioni chiare, passo dopo passo, viene smontato il mito della vecchia fattoria coniugato in salsa disneyana e pubblicitaria, quel luogo poetico e bucolico dove gli animali vivono felici donando la loro carne, il loro latte, le loro uova, la loro pelle, il loro lavoro e il loro sangue. Un luogo che non è mai esistito nella realtà, nemmeno ai tempi della civiltà contadina. Perché la fattoria infelice è solo un luogo di fantasia, una sorta di archetipo ormai insediato nella nostra mente, uno stratagemma utile a farci credere che da qualche parte esista o sia esistito nel passato un metodo etico accettabile, onesto, che consenta di ottenere prodotti animali senza sofferenza e morte. Un luogo a cui ormai da molti anni fanno riferimento tutte le aziende che vendono prodotti animali, proprio nel tentativo di tranquillizzare i consumatori più sensibili, quelli che hanno cominciato a porsi delle domande sul reale significato di benessere animale. In questo piccolo libro troverete spunti e approfondimenti che smascherano le icone del latte appena munto e delle galline felici, ma anche quella della trazione animale, pratica che è tornata in voga negli ambienti dei nuovi contadini che pretendono di tornare alla natura. Troverete considerazioni antispeciste sul tanto mitizzato mondo contadino, sulla condizione delle donne in quel periodo e sulla catena del dominio, il cui ultimo anello era rappresentato proprio dagli animali, un mondo contadino a cui, nonostante tutto, il mito della fattoria infelice puntualmente fa riferimento. La fattoria infelice è un libro che torna come una piccola arma di difesa contro la disinformazione plateale, continuamente diffusa e spacciata con i potenti mezzi del marketing dello sfruttamento animale. Torna perché è ancora drammaticamente attuale e torna soprattutto con una nuova prefazione dell'attivista, saggista e ricercatrice antispecista Benedetta Piazzesi, che lo impreziosisce arricchendolo di considerazioni e spunti da non perdere. La fattoria infelice, animali e contadini di Troglodita Tribe, ortica editrice, si trova facilmente su tutti gli store online. Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, conosce la mia stanza. E fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, oggi sono perso, non mi riconosco. Cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto. Evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto, e poi come mi vesto? Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. Nella lunga marcia verso un radicale cambiamento delle abitudini alimentari dell'Occidente, divenute ad altissima percentuale di proteine animali sulla spinta della società dei consumi, si segnala l'iniziativa del governo danese, che sembra intenzionato a imprimere una sterzata rispetto a un'inerzia che sta creando seri problemi di salute alle persone e al pianeta. Il governo danese, a dire la verità, nei documenti ufficiali non sembra prendere in considerazione la questione animale, ma questo non sorprende, visto che la cultura prevalente è ancora fortemente antropocentrica e suprematista. Il governo danese dunque ha presentato un piano d'azione che mira a aumentare la produzione e il consumo di alimenti a base vegetale attraverso finanziamenti al settore pubblico, all'industria e ai centri di ricerca. Nel settore pubblico in particolare si intende agire sulle mense pubbliche, scolastiche, ospedaliere, di enti locali e altre società, al fine di aumentare il consumo di prodotti su base vegetale. Ma l'obiettivo più diretto del governo danese sembra essere proprio la produzione di alimenti vegetali, compresa la carne coltivata. Il governo ha già stanziato 100 milioni di euro per favorire la formazione di chef e l'avvio di start-up, in modo da creare una filiera specifica. Secondo i calcoli del Ministero dell'Agricoltura, lo sviluppo di un'industria veg potrebbe portare ricavi pari a 3,5 miliardi di euro nelle casse pubbliche, calcolando anche i risparmi per la sanità, grazie alla diminuzione delle malattie causate dall'alimentazione attuale, prevalentemente carnivora, e potrebbe creare anche 27.000 posti di lavoro nel nuovo settore. Per il ministro Jacob Jensen, gli alimenti a base vegetale sono il futuro. La transizione dalla carne, ha detto, è necessaria. E non c'è dubbio che una dieta più ricca di vegetali aiuta a ridurre la nostra impronta climatica. La Danimarca si candida dunque a fare da apripista di un possibile cambiamento nelle produzioni, nei consumi, nelle abitudini dei cittadini europei e occidentali. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa visione politica, del tutto assente in un paese come il nostro, segnato anzi da un'attitudine in questa materia schiettamente reazionaria e negazionista. Reazionaria nella difesa del sistema industriale alimentare così com'è, negazionista sia sul tema dell'impatto ambientale e sulla salute della filiera animale, sia sulla profonda ingiustizia del sistema concentrazionario ed eliminazionista cui sono sottoposti gli animali. Due minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. così, a occhi chiusi, sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea. Gabriele Palloni, rispetto al governo danese, è in largo anticipo. Per lui la svolta dal carnismo all'alimentazione su base vegetale è già storia. Gli abbiamo chiesto stavolta di proporci una ricetta che serva anche da ricordo della figura di Bambotto, cervo innocente, ucciso con cinica noncuranza da un povero cacciatore. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Vi dico la verità. Quanto preferirei dedicare ricette ad atti di rispetto e amore verso le altre specie, piuttosto che rendere omaggio ad animali uccisi dalla crudele follia di alcuni umani. Scusaci, Bambotto, non abbiamo saputo proteggerti a sufficienza. Per questo, in tuo ricordo, una ricetta della terra che ti ha visto vivere felice. Gnocchi di zucca alla bellunese. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di zucca gialla, ben soda, 100 g di farina tipo 0, 20 g di farina di ceci, 40 g di acqua, un pizzico di curcuma e sale. Per il condimento, 250 ml di yogurt di soia al naturale, 250 ml di latte di avena, 30 g di amido di tapioca, 2 cucchiai di lievito alimentare a scaglie, un cucchiaio di succo di limone, un pizzico di curcuma, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Sbucciate la zucca e tagliatela a pezzi e fate cuocere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Nel frattempo preparate la fonduta di avena per il condimento. Stemperate l'amido di tapioca nel latte di avena, aggiungete lo yogurt, l'olio extravergine, il succo di limone, la curcuma, il lievito alimentare e aggiustate di sale e pepe. Mettete sul fuoco a fiamma medio-bassa e mescolate con una frusta fino a quando inizierà ad addensare e filare. Togliete dal fuoco e lasciate da parte. Recuperate la zucca che avrete lasciato intiepidire e frullatela, quindi passate al setaccio. Stemperate la farina di ceci nell'acqua e unitela alla zucca. Aggiungete la farina, la curcuma e il sale e lavorate fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. Con l'aiuto di un cucchiaio realizzate degli gnocchetti che farete cuocere in acqua bollente salata per pochi minuti. Scolate e condite con la fondutina di avena. Una bella macinata di pepe fresco e servite. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Francesco Panier, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla e da chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.